Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Avevamo un appuntamento, ecco, ci troviamo, sono le 11.08. Filippa Oreggi regge la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Malattie reumatiche non sono solo reumatismi. C'è di più e tanto di nuovo. Nati con la musica in testa. Al cervello maschile piacciono le curve. Oggi parliamo di quelle che genericamente vengono chiamate malattie reumatiche. Se qualcuno ci chiedesse a bruciapelo i nomi di queste malattie, probabilmente molti di noi direbbero: beh, malattie reumatiche sono i reumatismi. Qualcuno aggiungerebbe l'artrosi, altri l'artrite, forse i più preparati accennerebbero all'artrite reumatoide. In ogni caso, chi dice malattie reumatiche pensa a qualcosa che colpisce, danneggia le articolazioni, provocando dolore. Ma la realtà è diversa, più complessa e articolata. Ne parliamo oggi col professor Pierluigi Meroni, che è professore di reumatologia all'Università di Milano e primario della divisione di reumatologia dell'Istituto Gaetano Pini di Milano. Professore, benvenuto e grazie per essere qui. Buongiorno. Professore, allora, ci vuole dare una definizione corretta, già che lei la sa, delle malattie reumatiche? Che cosa sono? Sono delle patologie infiammatorie croniche che interessano diverse parti del nostro organismo, che per una buona parte interessano le articolazioni e quindi vanno d'accordo con quella che è l'accezione comune generale della popolazione, che dice malattie reumatiche uguale reumatismi o artrosi, ma in realtà questo copre soltanto un 40-50% delle malattie della reumatologia moderna. La restante parte invece coinvolge malattie che interessano anche le articolazioni, ma sono più pericolose per l'interessamento che loro danno degli altri organi: cuore, cervello, polmoni, rene, cute, e quindi sono più malattie sistemiche, con un termine tecnico. In altre parole, il reumatologo non è soltanto lo specialista delle articolazioni, ma è uno specialista molto molto vicino all'internista, perché deve curare un paziente nella sua totalità. Queste sono malattie infiammatorie su base autoimmune. Che cosa vuol dire questa parte restante di malattie? Vuol dire che il sistema immune, anziché combattere normalmente solo con le sostanze diverse da noi, virus, batteri, impazzisce, fa un errore, comincia ad attaccare anche i nostri costituenti, provocando quell'infiammazione con cui normalmente elimina un batterio. Invece, attaccando i propri costituenti, determina un danno in questi tessuti. Se questo danno non si ferma, comporta la distruzione dei tessuti e la perdita della funzione. Quindi un rene non filtra più come deve filtrare, un polmone non si espande, non respira più come dovrebbe fare, un cuore non pompa più con la stessa forza, un cervello perde la funzione, essendo un tessuto estremamente sofisticato e anche delicato. Queste sono le complicanze sistemiche delle malattie reumatiche e sono l'obiettivo del nostro intervento: bloccare questo processo che dovrebbe evolvere se non trattato. Che è quella che si dice la sfida della nuova reumatologia, quindi una reumatologia che diventa anche una specializzazione adatta proprio per curare queste malattie autoimmuni che costituiscono una buona parte delle malattie reumatiche. Ma allora, che cosa hanno però in comune tutte queste malattie così diverse? Noi abbiamo citato i reumatismi e l'artrosi e poi abbiamo parlato di malattie autoimmuni, in cui c'è questo sistema immunitario che impazzisce, fa una sorta di autogol. Perché volerla a tutti i costi, no? Chiamarla allo stesso modo? Perché molte volte il tutto comincia proprio attaccando le articolazioni, quindi da qui viene il filo di Arianna che porta tutte queste malattie allo stesso specialista. L'artrosi è un'infiammazione modesta, ma è un'infiammazione dovuta al fatto che le due parti dell'articolazione, cartilagine e osso, non sono più scorrevoli una sull'altra perché sono degenerate, sono i giunti della nostra macchina che non sono oliati e non funzionano più. Avendo un attrito si infiammano e comportano un dolore e un ulteriore danneggiamento. Quando invece, anziché esserci un'alterazione dei tessuti, una degenerazione dovuta all'età o a dei traumatismi cronici come chi fa degli sforzi prolungati, Se questo danno è innescato da un sistema immune che improvvisamente attacca quei tessuti che stanno dentro nell'articolazione e dentro l'articolazione scatena questa tempesta infiammatoria, il danno questa volta non è legato ad una degenerazione, ma è legato proprio all'errore del sistema immune. Molte delle malattie autoimmuni sistemiche reumatologiche cominciano con un'artrite, che è diversa dall'artrosi, che è molto più violenta come infiammazione, poi dopo migrano dall'articolazione e vanno a colpire anche gli altri organi. Questo è un po' il filo conduttore che ha portato in un'unica specializzazione malattie che sono estremamente diverse. Le malattie autoimmuni reumatologiche sono cosiddette anche connettiviti, sono il lupus eritematoso sistemico, sono la sindrome di Sjögren con la sindrome degli occhi secchi, sono la sclerodermia, che è un'altra forma in cui all'infiammazione subentra una cicatrizzazione, un deposito di materiale cicatriziale nei tessuti che perdono la loro elasticità compromettendone la funzione. Queste sono tutte messe assieme nell'ambito della specializzazione in reumatologia. C'è da dire che per le loro caratteristiche sono spesso gestite anche da altri specialisti come gli immunologi clinici, che hanno una parte in comune con i reumatologi, però la gran parte delle strutture sul territorio disponibili per questi malati sono in ambito reumatologico. Professor Meroni, però si dice che il dolore sia il primo campanello d'allarme. Possiamo dire agli ascoltatori a casa, se avvertite dolore, un dolore che non conoscete bene, un dolore nuovo, specie alle articolazioni, chiamateci? Direi di sì, direi che il dolore articolare o segni di infiammazione sistemica come una febbre non riconducibile a un'infezione, a un'influenza, o delle manifestazioni di infiammazione cutanea non spiegabili col fatto di essere stati troppo esposti a sostanze tossiche o irritanti come possono essere i raggi ultravioletti, se prolungate nel tempo e senza apparente causa, sono tutte spie di un qualcosa che potrebbe essere ricondotto alle malattie reumatiche. Possiamo aggiungere anche, professor Meroni, il gonfiore, o il gonfiore si associa sempre comunque al dolore? Si associa quasi sempre al dolore. L'infiammazione comporta una perdita di permeabilità dei vasi, per cui c'è i vasi piangono, si perdono i liquidi e questi determinano l'edema e quindi questo determina il gonfiore. C'è vasodilatazione quando c'è infiammazione, cosa vuol dire? Che i vasi si allargano e questo spiega il rossore, quindi il calore e il colore rosso delle articolazioni. C'è quasi sempre un'associazione dolore, rossore e gonfiore, è la triade tipica dell'infiammazione. Allora noi partiamo da questa triade e io vi consiglio di chiamare il nostro numero verde 824 0024 oppure di scriverci un sms 349 238 6666. Una mela al giorno. Piccoli, piccolissimi, appena nati, a 24-48 ore di vita, noi siamo in grado di comprendere la musica. Ancora una volta la ricerca dimostra che il cervello ha orecchio musicale, se così possiamo dire. Insomma, siamo nati e organizzati per ascoltare e fare musica. Ma voglio passare la parola alla professoressa Daniela Perani, docente di psicologia fisiologica presso l'Università Vita Salute San Raffaele, che ha studiato con la risonanza magnetica funzionale l'attività del cervello in neonati esposti alla musica. Professoressa Perani, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Dunque, noi abbiamo studiato bambini molto piccoli perché eravamo interessati a rispondere a una domanda cruciale nelle neuroscienze, cioè il cervello elabora la musica come risultato dell'esperienza, cioè dell'esposizione a questa, oppure siamo già forniti di substrato neurale, di sistemi neurali in grado di permetterci di elaborare stimoli musicali già dalla nascita, ovvero è un processo a cui siamo giunti col contributo dell'evoluzione oppure è necessaria una importante esposizione per avere queste capacità. Quindi il modo migliore per studiare questo era utilizzare, diciamo così, bambini piccolissimi appena nati. Certo. Questi bambini sicuramente non hanno una esposizione alla musica perché sappiamo che il suono arriva anche quando sono in utero, ma in maniera molto attutita, soprattutto per quanto riguarda le componenti della musica. Quindi abbiamo fatto questo esperimento molto semplice, abbiamo esposto i bambini a pezzi di musica classica occidentale, quindi Mozart, Chopin, Schubert, Schumann, pezzi bellissimi. E abbiamo visto, dopo le nostre analisi dei dati adeguate, che i bambini attivano un sistema prevalente in emisfero destro, che è praticamente lo stesso che quello che si è visto attivato in persone adulte che hanno passato una vita esposte alla musica. Professoressa Perani, se immagino che abbiate però anche esposto i bambini all'ascolto di musica stonata, magari degli stessi pezzi resi dissonanti o alterati nella struttura. Certo, perché volevamo vedere se, una domanda in più, se è la struttura della musica con le sue caratteristiche per cui ci siamo evoluti e siamo in grado di produrre questo tipo di musica universalmente, poteva cambiare se appunto noi cambiavamo la struttura. Quindi abbiamo creato dissonanze, abbiamo creato delle dissonanze continue, delle dissonanze più focali, sono aspetti tecnici questi, ma il risultato è stato davvero impressionante. Questa asimmetria emisferica cade, cioè l'emisfero destro non è più dominante, diventa un'attività molto più ridotta e entra in gioco un sistema dell'emisfero di sinistra. Ancora dobbiamo rispondere al perché di questo cambiamento, ci sono delle ipotesi anche complesse che andranno anche testate con ulteriori esperimenti. Questo è magnifico. Io quando leggo i risultati di queste ricerche, soprattutto quando i ricercatori come lei ce li spiegano in modo così semplice, noi che non siamo addetti ai lavori rimaniamo così stupiti, favorevolmente stupiti, direi, di questa abilità del nostro cervello. E sicuramente, professoressa, questa è una ricerca che rappresenta un ulteriore passo avanti nella conoscenza delle origini e dello sviluppo delle funzioni del nostro cervello. Questo certamente, infatti sono risposte fondamentali, è la cosa più interessante, appunto, valutare cervelli che sono ancora in fase di sviluppo o che sono proprio all'inizio del loro farsi, diciamo, in confronto alla realtà della vita, quindi all'esperienza, quindi chiamiamoli così, cervelli naive ancora per certe esperienze, quindi è molto interessante studiare l'evoluzione anche da questo punto di vista. Professoressa Perani, chiudiamo con un consiglio ai genitori di bambini piccoli, direi piccolissimi proprio, di pochi giorni di vita, che sono all'ascolto. Io direi, visto che il cervello è così ben equipaggiato, non riduciamo le stimolazioni, quindi un bambino, abbiamo ben visto, può benissimo ascoltare, purché consonante e piacevole, anche musica molto complessa come quella di grandi compositori classici, quindi non è vero che si può solo presentargli filastrocche semplici, ecco. Quindi andiamo pure sulla complessità, perché il nostro neonato è un tipo in gamba che sa decodificarla. Sicuramente sì. Professoressa Perani, è stato un piacere, la ringrazio, complimenti, aspettiamo buone nuove allora. Certamente, grazie. Pronto soccorso. Oggi abbiamo molto da dire perché parliamo delle malattie reumatiche. Il professor Meroni, che qua in studio con me, ci ha fatto capire che sono delle patologie tra loro molto diverse, perché accanto al classico reumatismo, all'artrosi e anche all'artrite, che è diversa dall'artrosi perché, come dice la parola, è un'infiammazione, ci sono delle malattie cosiddette autoimmuni, e ci ha spiegato proprio il meccanismo di queste malattie, cioè il sistema immunitario, professor Meroni, impazzisce e fa una sorta di autogol. Gol, no? Invece che proteggerci ci attacca, insomma fa un'altra cosa da quella per cui è nato, e lì possono iniziare i problemi. Io vorrei però chiedere a lei, abbiamo sottolineato quali sono gli aspetti, i sintomi che i nostri ascoltatori da casa non devono trascurare, e sono il dolore, il gonfiore ed il rossore, la triade l'abbiamo chiamata, ma andiamo a un identikit delle persone che sono più esposte a questo rischio. Sappiamo che le malattie reumatiche preferiscono le donne. Perché, professore? Questo è vero, però io farei una distinzione iniziale. Per quanto riguarda i fenomeni degenerativi a carico, ad esempio, dell'artrosi, questo è un problema appannaggio della seconda parte della vita, cioè dai 50-60 anni in su. Ed è l'argomento che forse è meglio conosciuto. Quello che non è conosciuto è l'altra faccia della luna, cioè ciò che succede dai 50 anni in giù. l'identikit delle malattie reumatiche infiammatorie autoimmuni è tipico innanzitutto dell'età giovanile, ha un picco tra la seconda e la quarta decade di vita, quindi colpisce i giovani, non è una patologia dell'anziano a differenza dell'artrosi. E oltretutto colpisce in maniera assolutamente prevalente il sesso femminile. Il motivo di questo è un motivo molto complesso, legato in parte proprio all'essere donna, all'essere femmina, all'avere gli ormoni femminili, legata in parte anche a dei geni, cioè al nostro materiale, al codice genetico presente nel cromosoma X, che è quello che dà il sesso. Quindi un qualcosa su cui noi possiamo fare molto poco, nel senso certo, che è legato alla persona in sé per sé. Assolutamente la prevalenza nelle donne è netta, fino ad arrivare su 10 pazienti che soffrono di lupus, di averne 9 femmine e un solo maschio. E in ogni caso l'età è sempre un'età giovanile. Quindi noi oggi ci rivolgiamo in modo particolare alle giovani donne. 800 24 0024, però in linea abbiamo un uomo che è Cesare da Vicenza, che accogliamo lo stesso. Buongiorno Cesare. Buongiorno, sono una pecora nera. No, perché poi c'è anche Giuseppe da Vicenza, ma siete già in due. Di Vicenza, comunque ascoltavo la trasmissione e credo di rappresentare la summa di quanto detto dal professore, in quanto mi sono accorto di avere dei problemi circa l'età di 20 anni, adesso ne ho 50-51, e il picco di queste infiammazioni, di questi dolori, mi è venuto fino ai 40 anni più o meno. Sì. Adesso sto un po' meglio. Mi prende ad esempio infiammazioni agli occhi, tipo uveiti oppure episcleriti, dolori, sciatalgie, dolori allo sterno, alle articolazioni, così insomma. Sono credo di rappresentare un buon... Un caso, ecco. Maschile però, professor Meroni. Cesare, lei è in cura? No, io non sono in cura, o meglio, faccio un attimo, perché la domanda mia era di vedere se c'era familiarità, perché io ho un figlio di 12 anni e hanno scoperto che io avevo questa patologia perché il mio medico di base mi ha fatto fare un'analisi e sono risultato positivo all'HLA-B27, no? Che per me è rimasto una sigla così marziana. Marziana, sconosciuta, eccetera, no? Però il professor Meroni questa sigla sicuramente la conosce, quindi lei chiede se c'è familiarità. Sì, ecco, io ho una sorella di 6 anni più vecchia che sta manifestando grossissimi problemi. Sì. Perché a lei veramente sta prendendo molto duro sta cosa qua. Ecco, io ho fatto una semplice cura con la salazopirina circa 10 anni fa e da quel momento diciamo che gli episodi sono molto, molto diradati. Bene, ecco. Cesare, lascia la parola al professor Meroni perché poi c'è Giuseppe anche che ci aspetta, professore. Allora, io credo di poterle dare innanzitutto buongiorno, due messaggi positivi, nel senso che uno, la sua malattia se non ha bisogno di essere trattata è una di quelle forme modeste che hanno una prognosi buona, verosimilmente da quello che posso aver capito semplicemente avendola sentita può essere un problema di tipo autoimmune sistemico con l'uveite, con l'interessamento articolare, visto anche la risposta alla salazopina che è uno dei farmaci antinfiammatori più di vecchio tipo, diciamo così. Comunque riguardo al problema, l'altro messaggio positivo che volevo dare sulla familiarità: le malattie autoimmuni sono sì legate a un background genetico, cioè alla base a quello che noi siamo, e dipendiamo come sempre dai nostri genitori e dai nostri antenati. Ma fortunatamente i geni che codificano, che regolano la presenza o l'assenza di queste malattie sono molteplici. In altre parole, non c'è un solo gene che codifica per il colore degli occhi o dei capelli, per cui è facile che questo venga trasmesso direttamente da padre o madre al figlio. In realtà sono più geni e devono essere messi assieme tutti in una certa maniera. Come io spiego anche agli studenti, dobbiamo pensare a una specie di mosaico in cui ci sono tante tessere. Se sono messe in una certa maniera compare la figura, se queste tessere non sono messe in quella maniera o sono mischiate la figura non compare e vengono trasmesse delle tendenze alle malattie autoimmune, ma non la malattia a se stessa. Bisognerà aspettare degli altri mescolamenti con gli altri, con altre tessere, cioè altri geni da altri futuri membri della famiglia, per avere poi la figura che si ricompone. Quindi è difficile che ci sia una trasmissione diretta da genitore a figlio. Allora, professor Meroni, noi adesso andiamo a sentire insieme i mercati e il meteo, sentiremo poi Giuseppe da Vicenza, continueremo a parlare di malattie reumatiche, ci sono delle terapie che possono cambiare davvero la qualità di vita di molti pazienti, di molte pazienti. Abbiamo detto che le malattie reumatiche colpiscono soprattutto le giovani donne, un tempo molte di loro dovevano rinunciare alla gravidanza, alla maternità, oggi invece possono affrontare questo appuntamento così importante della loro vita, e quindi questo è sicuramente un passo avanti della reumatologia, della scienza. Ecco, siamo tornati, oggi parliamo di malattie reumatiche, un universo composto da patologie tra loro diverse che possono interessare non solo, come abbiamo pensato sino ad ora noi, magari prima di incontrare il professor Meroni, le articolazioni, ma anche cuore, pelle e reni. Nell'attesa delle vostre chiamate 824 0024 voglio dare il benvenuto al dottor Dario Caldiroli, che è primario di neuroanestesia all'Istituto Besta di Milano, per parlare di un intervento direi unico nel suo genere: l'asportazione di un tumore cerebrale senza sedazione ma con l'utilizzo di anestesia locale e agopuntura. Dottore, benvenuto e grazie. Buongiorno, grazie a lei. Dottore, pensare ad un intervento così delicato a paziente sveglio, insomma, ha dell'incredibile. Sì, fa sorgere delle perplessità nelle persone che ci ascoltano, però sì, dobbiamo dire che, ed è una curiosità questa, già ai tempi del medico di Ramazzetti II, Imhotep, ci sono state delle dimostrazioni che questo intervento poteva essere fatto, e questa è la curiosità. Quello che è stato fatto nel nostro istituto invece è stato pensato proprio per mettere il paziente al centro dell'attenzione, cioè in questo caso con il paziente sveglio, con una buona anestesia dei nervi dello scalpo, cui è stata associata ultimamente l'agopuntura, sì, il paziente diventa l'attore principale dell'intervento chirurgico, quello che guida l'attività del chirurgo e dell'anestesista. Perché invece averlo, di subire, sì, l'intervento, diventa l'attore principale. E questo ha un effetto positivo sull'esito dell'intervento, e quindi è meglio? Estremamente positivo, perché evita tutti gli effetti collaterali, anche minimi, dell'anestesia. Sì. Soprattutto la degenza post-operatoria e preoperatoria è molto limitata. Il paziente non subisce i danni della lunga ospedalizzazione e soprattutto viene dimesso molto più precocemente. Dottore, quindi è meno rischioso rispetto all'intervento? Noi quando pensiamo a un intervento al cervello ci immaginiamo una sedazione del paziente. Questo sarebbe è meno pericoloso rispetto all'intervento tradizionale? È meno pericoloso perché c'è meno interferenza farmacologica, sì, dei farmaci con lo stato psichico del paziente, che deve rispondere ai comandi del chirurgo. Nel nostro caso, che è un caso per ora unico e speriamo sia il primo di una lunga serie, la sedazione è stata sostituita dall'agopuntura. E lui non ha avuto assolutamente dolore? Assolutamente no. E sta bene ed è tornato a casa rapidamente? È tornato a casa dopo 3 giorni, 2 giorni e mezzo, la sua precedente occupazione. Dottore, grazie per essere stato con noi. Veramente devo dire che letta con lei la notizia ci solleva, perché quando diciamo senza anestesia uno pensa subito chissà quanto avrà sofferto. Invece è un vantaggio da quanto lei ci ha detto. Sì, l'anestesia è sempre qualcosa che aggiunge una quantità di rischio ad un intervento chirurgico. Togliendo anche questa piccola parte di rischio, diciamo, facciamo il bene del paziente. Dottor Caldiroli, grazie per essere stato con noi. La lascio alla sua sala operatoria. Buona giornata. Buona giornata anche a voi, grazie mille. Giuseppe da Vicenza, buongiorno, l'ho fatta aspettare. Buongiorno. Nessun problema. Ci allora, mi sente? Sì, io benissimo. Ma l'importante allora, è che la senta il professor Meroni. Il problema, sì, io soffro di dolori alle articolazioni un po' diffusi a tutte le articolazioni, nel senso che mi è sufficiente utilizzare un'articolazione un po' più del normale, per esempio piantare dei chiodi sul muro piuttosto, sì, che fare una passeggiata, e il giorno successivo avverto dolore che si protrae per più giorni e mi costringe a prendere antinfiammatori. Ho chiesto al medico, il quale mi ha guardato le mani, ma dice che secondo lui non c'è nessun problema particolare. Le domande sono due: devo fare un accertamento più approfondito, e secondo, se questo può essere collegato al fatto che io soffro di problemi alle vie respiratorie a causa di un'allergia agli acari. Grazie Giuseppe. Giuseppe ci ha detto: il medico vi ha guardato le mani. Professor Meroni, basta guardare le mani? Quando ci sono dei segni clinici precisi, sì, è sufficiente guardare le mani, perché l'aspetto dell'articolazione ci può indirizzare verso diverse forme di malattie reumatiche, e ci sono dei trucchi del mestiere. Ad esempio, la parte finale delle articolazioni, se si deforma, sono tipiche dell'artrosi. Invece l'artrite infiammatoria, l'artrite reumatoide o altre artriti su base autoimmune colpiscono le interfalangee, cioè le articolazioni più vicino al palmo. Esatto, quindi già questo per un medico, per uno specialista, è un segno che indirizza. Ci sono degli altri segni sulle mani, perché ci sono dei segni di lesioni della piccola circolazione che possono essere spia di altre malattie sottostanti. Quindi il reumatologo spesso e volentieri mette le mani del paziente sotto il riflettore per poterle guardare attentamente, perché ci sono dei segni clinici che sono importanti. Riguardo al problema che diceva il signor Giuseppe, una giusta attenzione a un sintomo che è insolito, ed è quello che le persone dovrebbero fare. Avere dolore dopo un'intensa attività fisica su un'articolazione iperutilizzata non è una roba che possa sorprendere più di tanto, ma avere per piccole attività fisiche una protratta sofferenza dell'articolazione può significare un qualcosa in atto, che ancora non ha dato segno di sé obiettivo, come giustamente ha detto il medico che ha visitato il signore di prima, però potrebbe giustificare alcune indagini di laboratorio, alcune indagini strumentali non invasive, poco costose, per poter documentare o meno la presenza di un qualcosa che cova sotto la cenere. Quindi esami del sangue? Oppure ecografia articolare, in modo da poter identificare in maniera assolutamente sicura, senza prendere raggi, radiazioni, la possibilità che ci sia un'infiammazione a livello delle membrane delle articolazioni. Ho 53 anni e da un po' mi alzo al mattino con le mani un po' gonfie e le dita doloranti al movimento. Come posso fare? Io aggiungerei: da chi andare, professor Meroni? Perché dai messaggi che arrivano c'è molta confusione. Pochi conoscono il reumatologo, almeno dai messaggi che arrivano, insomma, si pensa all'ortopedico, ma il reumatologo è qualcosa di diverso rispetto all'ortopedico. Avete due specializzazioni diverse, professore. Siamo due mondi che sono totalmente diversi, anche se sono centrati sempre sulle articolazioni, o frequentemente sulle articolazioni. L'ortopedico è fondamentalmente un chirurgo, e infatti sta nella sua bravura manuale, il meglio della specialità. Il reumatologo è fondamentalmente un internista. Un clinico internista, questo almeno nell'accezione moderna del termine. I disturbi che sono riportati dal signore che ha portato questo esempio sono abbastanza tipici. Ad esempio, alcune nostre forme iniziano proprio con questa rigidità mattutina che si protrae per più di 20-30 minuti. La gente si alza e non riesce ad aprire la macchinetta del caffè. Poi dopo, pian pianino, è come se le mani si sciogliessero. Sono gonfie, non riescono più a far passare gli anelli, le donne, eccetera. Questi possono essere segni da prendere in considerazione se rimangono per molto tempo, e quindi scatenare una richiesta. Richiesta di che cosa? È il medico di base che dovrebbe avere l'illuminazione di mandare il paziente in ambiente reumatologico, cosa che non sempre è facile in breve termine, ed è un peccato, perché una diagnosi precoce, come dicevamo prima, aiuta alla soluzione del problema. In questo senso, ad esempio, ci sono delle cosiddette ambulatori per le artriti precoci, che sono un po' dei percorsi preferenziali in cui si evita la coda che si ha per arrivare al reumatologo, e si arrivano direttamente dal medico di base con questo sintomo, che può essere molto semplice, poco violento, però importante da valutare, sia in senso positivo che in senso negativo. Perché prima arriviamo a una diagnosi, prima risolviamo il problema. Prima cominciamo con la terapia, prima possiamo bloccare il processo, più facilmente blocchiamo la formazione di un danno. Barbara ci chiama da Brescia, buongiorno Barbara. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Io ho 36 anni e mi è stata diagnosticata una connettivite indifferenziata e anche una fibromialgia da circa 5 anni. Infatti soffro di dolori praticamente a tutte le articolazioni, soprattutto a livello dei tendini. Ho quasi sempre febbre da tra i 37,2 e 37,5 a settimane alterne. Ho il problema del fenomeno di Raynaud, quindi quel discorso che facevate del calore rossore, e ultimamente sempre anche problemi di dermatiti. Mi è stato detto che però la connettività indifferenziata non è propriamente una malattia, e quindi volevo capire a questo punto che cos'è e se rimarrà, diciamo, in questo stato o potrebbe negli anni ulteriormente degenerare, magari divenire un lupus o altre forme. Per ora mi hanno detto che avendo ormai 5-6 anni di stabilità non dovrebbe. Io ho sempre notato però dei piccoli peggioramenti come dolori e circolazione, e rispondo bene alle terapie cortisoniche. Grazie Barbara. Professor Meroni. È un buon esempio, la signora Barbara da Brescia è un buon esempio di una malattia tipica reumatologica. È una giovane donna che ha delle manifestazioni poco specifiche, talmente poco specifiche che non permettono di classificarla, di metterla in un gruppo ben definito, lupus o sindrome di Sjögren o scleodermia o artrite reumatoide. Per questo noi abbiamo coniato negli ultimi 15 anni il termine di connettività indifferenziata. Che cosa vuol dire? Mettiamo in questa scatola tutti quei pazienti che hanno delle forme generalmente a prognosi decisamente buona, con dei sintomi che non sono ancora ben caratterizzati, ma con degli spunti, dei suggerimenti da parte dei dati di laboratorio, da parte del quadro clinico, che ci assicurano che c'è sotto qualcosa. Questa connettività indifferenziata, giustamente la signora Barbara si domanda, ma è l'anticamera per una malattia conclamata, per un lupus, tanto per fare un esempio? La risposta è non necessariamente, perché il sistema immune, quando sbaglia, non necessariamente peggiora il suo errore. Perché rimane lì nel suo sbaglio. Perché lui ha dei sistemi di autocontrollo e il risultato malattia è la somma più o meno dell'efficacia di questi sistemi di autocontrollo. Quindi io posso avere dei sistemi di autocontrollo che frenano, sì, e quindi ho una malattia che tutto sommato mi consente una vita normale. Insomma, sbaglia ma si controlla. Sbaglia ma si controlla. Siamo tornati e abbiamo con noi Antonio che ci chiama da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno, eccomi qua. Allora, sinteticamente il mio problema è questo, diciamo da un 4-5 mesi a questa parte ho avvertito un dolore alla spalla destra che appunto mi sono portato avanti per circa un paio di mesi, 2-3 mesi. Piano piano, come è avvenuto, questo dolore un pochino se n'è andato, adesso però si è spostato nell'avambraccio, quindi nella parte del braccio che va dal gomito al polso. E in condizioni di riposo non ho grossi problemi, ma stringendo anche piccole cose, addirittura stringendo la mano per salutare le persone, avverto questo dolore alla parte all'avambraccio. Ultima cosa, nel gomito, nella parte esterna del gomito, scusate i termini poco tecnici, ma no, assolutamente. Nella parte esterna del gomito, se io tocco con un dito, ho un punto preciso in cui sento un dolore appena tocco. Senta, ecco, ma lei gioca a tennis? No, ho giocato a tennis, ma adesso ho 53 anni. Insomma, Non è che da buttar via. Antonio, su, 53 anni e giovane come l'acqua. Professor Meroni, ma questi dolori possono essere dolori reumatici? Sono dolori infiammatori verosimilmente legati ad una tendinite e richiamano molto ad esempio le epicondiliti del famoso gomito del tennista, quindi sono verosimilmente qualcosa molto più sul versante ortopedico che non sul versante reumatologico, se vogliamo ricercare una causa sistemica, una malattia sottostante. Perché la differenza qual è? Che la malattia, se c'è sotto, comincia magari con un'articolazione, ma colpisce anche quella dall'altra parte. Ecco, cioè, tende ad andare avanti a ondate simmetriche, cioè a entrambi i lati. Non vuole fare preferenze, insomma. Assolutamente no. Diciamo assolutamente che no. Preferiscono le donne giovani, ma poi alla fine si bilancia. Andrea da Genova, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. La mia era una curiosità per quello che riguarda mia moglie, una curiosità, un problema un po' grosso che si porta avanti da circa 15 anni. Tutto è iniziato, diciamo, prima che rimanesse incinta, aveva dei rossori molto dolorosi ai piedi, alle ginocchia. Al momento questo prima quando eravamo fidanzati, spesso gli capitava e non si capiva, con gli antinfiammatori passavano. Quando è rimasta incinta di mia figlia, diciamo, ha cominciato mia moglie a non espellere il cosiddetto acido urico, ci è stato detto, ha avuto problemi proprio nelle articolazioni, piedi e ginocchia, gli si sono formati come dei toffi. Sì. Andrea, io le chiederei di raccontarci tutto, ma rapidamente, perché sennò non ci stiamo. Sì, sì, no, giustamente. E praticamente da lì in poi mia moglie ha dovuto prendere sempre due medicine, che prende da 15 anni, per sciogliere questi toffi in modo che non gli si formassero più. Diciamo che adesso sta meglio, poi dieta una dieta appropriata, sì, che non prende proteine e via dicendo, sta meglio. Però io volevo chiedere al professore se c'era qualcosa di alternativa a queste medicine, perché allora intanto non sappiamo la causa, dicono che sono un'insufficienza, piccola insufficienza renale, altre cose, e oltretutto volevo sapere se c'erano delle medicine alternative che erano meno invasive. Andrea, mia moglie 39 suggerire, anni. Suggerire farmaci per radio senza vedere il paziente è impossibile, però il professor Meroni magari un'indicazione relativamente. Tutto si è scatenato, mi sembra, in modo dopo la gravidanza, è un andamento comune nelle malattie reumatiche? Allora, due aspetti. Uno riguarda la moglie di Andrea. Da quello che si evince da quanto lui ha riferito, è una forma di gotta, quindi come tale lui è già in terapia dietetica, in terapia con farmaci che riducono la produzione di acido urico, nuovi farmaci. È una forma infiammatoria, questa volta legata a un errore del metabolismo, si produce troppo acido urico, che è una sostanza che induce infiammazione, sì. Quindi una cosa che è reumatologica, ma però, che è diversa dall'autoimmunità, non c'entra niente, è una delle altre forme, è una delle altre stelle della galassia delle malattie reumatiche. Riguardo alla gravidanza, il rapporto con la gravidanza invece è interessante, perché generalmente la gravidanza può determinare una modificazione della malattia in sé per sé. Alcune forme possono essere aggravate, altre forme addirittura migliorate. L'artrite reumatoide è tipica manifestare un miglioramento durante la gravidanza, e non appena la gravidanza finisce, inizia l'allattamento, ritorna fuori. Il lupus invece, se mal curato, può peggiorare durante la gravidanza e addirittura peggiorare ancora di più durante l'allattamento. Quindi la gravidanza è un allarme rosso per il reumatologo su come gestire la mamma. Però, professor Meroni, le malattie reumatiche, le malattie soprattutto autoimmuni, non hanno nulla a che fare con la fertilità, giusto? No. Cioè, non si può rimanere comunque incinta ugualmente, perché ci sono tanti messaggi, una malattia autoimmune ma non riesco a rimanere incinta. Non è un problema della malattia autoimmune? No, in generale le donne con malattie autoimmuni hanno una fertilità normale, quindi questo per noi rappresenta un ulteriore aspetto del problema. Spesso e volentieri, visto che noi adesso trattiamo meglio le malattie autoimmune di un tempo, abbiamo le donne che sono gravide. Però non tutti i farmaci che noi possiamo dare per curare la malattia della madre possono essere dati durante la gravidanza, quindi ci deve essere una connessione. Dovete pianificarla. Assolutamente. Professor Meroni, lei ha citato i farmaci, noi abbiamo proprio 20 secondi, anche in reumatologia, farmaci biologici, che sono considerati i farmaci di nuova generazione, tra virgolette, biologici è un termine che non ci piace, ma vuol dire che proprio centrano il bersaglio. Quindi questa è un'opzione in più per i pazienti che non trovano beneficio dalle terapie con i farmaci della passata generazione, così? È così, diciamo che abbiamo assistito negli ultimi 10 anni ad una rivoluzione copernicana. I farmaci che abbiamo adesso sono estremamente più potenti rispetto a quelli in passato, vanno usati quando c'è una mancata risposta a quelli precedenti, costano tantissimo, sono molto efficaci, possono in qualche caso indurre non solo una remissione totale ma addirittura una guarigione. Professor Meroni, grazie per essere stato grazie con noi, lei. Avremo ancora tanto da dire, ma torneremo. Intanto io vi saluto, vi do come sempre appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.